Italia in controluce. E il 6 settembre si apre una nuova settimana di Italia in controluce, i reportage, gli approfondimenti della redazione di Radio 24 dedicati alla cronaca italiana e alle sue storie. Vi parla Daniele Biacchessi. Qualcuno si ricorda del terremoto del Belice del 1968? Si ricorda, per esempio, del fiume di denaro stanziato e speso male? Non vi preoccupate, siamo in Italia. Oggi, nel 2010, si continua a parlare di Belice. Giampiero Casagni. Chi ha preso i soldi del Belice? Guardava, a parte il capro, cioè, noi siamo rimasti un po' di agitpova, ma c'era un nuovo presidente che guarda, chi ha preso i soldi del Belice? Agitpova, ma li scopriva tu i soldi del Belice, che facciamo si figure niente con il presidente, cacciate i soldi, che... presidente. Cioè, se mio padre ha detto che i soldi del Belice non l'ha toccato, non l'ha toccato. Assodato che i soldi del post terremoto del Belice non li ha presi Massimo Troisi, che in un famoso sketch del 1980 rassicurava il presidente Pertini, è pur vero che dalla notte fra il 14 e il 15 gennaio 1968, quando un violento sisma colpì l'area della Sicilia, compresa fra le province di Agrigento, Trapani e Palermo, provocando la morte di 231 persone, di denaro per la ricostruzione ne è stato stanziato parecchio ed è stato male utilizzato. Dei ritardi, inefficienze e ruberie nel Belice si è sempre parlato in questi anni, eppure due anni dopo il sisma, il 25 marzo 1970, un inascoltato e subito soffocato grido di dolore era arrivato proprio da quelle popolazioni. Gli uomini veri di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solido e una possibilità di vita ad una parte del proprio popolo. Era la voce di Radio Partinico, prima emittente radiofonica non ufficiale voluta dal sociologo e attivista della non violenza Danilo Dolci, che venne disattivata dopo appena 24 ore. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione, la popolazione delle valli del Belice, dello Jato e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Non possiamo lasciar compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere nelle baracche, non si vive di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi in ricoveri affastellati fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva essere già ricostruita, con case vere, strade, scuole, ospedali. Nel 1996 la commissione parlamentare accertò che le popolazioni del Belice erano state vittime di insipienza e malgoverno e che per il periodo 68-95 lo Stato aveva autorizzato con legge 3.100 miliardi di lire destinate alla ricostruzione, ma 828 non erano mai stati erogati. L'intero paese ha nei confronti del Belice un debito morale che deve essere colmato al più presto, affermò la commissione. Oggi servono 320 milioni per l'edilizia privata e 133 milioni di euro per le opere pubbliche. Nell'ultima finanziaria, 42 anni dopo il sisma che lasciò senza casa migliaia di famiglie e dopo le sollecitazioni del coordinamento dei sindaci del Belice, è stata impegnata una nuova tranche di finanziamenti. Nicola Catania, vice coordinatore del comitato, spiega: la parte di questo fondo che toccherà in tre anni, fra l'altro non subito, in tre anni al Belice, ancora non è stata definita. Gente nelle baracche, oggi nel Belice non ce n'è più, ma la ricostruzione dell'intero patrimonio edilizio non è stata completata e ci sono ancora opere pubbliche da ultimare e urbanizzazioni da fare. Dal 78 in avanti, da quando ci fu la 120 che ha messo nelle mani ai comuni di poter operare, non più allo Stato, la ricostruzione ha avuto un'accelerazione, ma sempre rispetto a quelle che erano le provvidenze che lo Stato mandava. Le mandava col contagoccia proprio per mantenere questo stato di bisogno costante, legato magari alla cortesia politica o al momento politico della situazione, non come invece avvenne nel Friuli, che avendo avuto esperienza del Belice con le nostre delegazioni che andarono lì a suggerire quale strade giuridiche e quale norme occorrevano per ricostruire, sono stati bravi non perché non lo fossero bravi, sono stati bravi perché lo Stato nell'arco di pochissimi anni ha riversato circa il triplo dei soldi che aveva riversato al Belice in 40 anni. Italia in controluce.